Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. In fondo al vestibolo, tra i lauri e le palme, sullo sfondo della gran porta a vetri colorati, la preziosa statua acefala di Venere Urania, scavata con l'invetra nello stesso posto ove ora sorge la villa, pareva che non per vergogna della sua nudità tenesse sollevato un braccio davanti al volto ideale che ciascuno, ammirandola, le immaginava subito lievemente inclinato, come se in realtà vi fosse, ma per non vedere inginocchiati alla soglia della cappella che si apriva a destra tutti quegli uomini così stranamente parati. La compagnia borbonica di Capitan Charal. La messa era per finire. Dentro la cappella, lucia di marmi e di stucchi, stavano soltanto il principe Don Ippolito, raccolto nella preghiera sull'inginocchiatoio dorato e damascato innanzi all'altare, e più indietro Lisi Preola, il segretario. E più indietro ancora le donne di servizio, la governante e due giovani cameriere. Vera tentazione del demonio era intanto quella statua nuda lì davanti alla cappella per tutti quegli uomini di guardia che dovevano star fuori. Mentre le labbra recitavano le preghiere, gli occhi erano quasi costretti a peccare, guardando senza volerlo quella nudità che Sua Eccellenza il Principe, tanto devoto, non avrebbe dovuto tener così esposta. Sembrava. Le povere donne di servizio abbassavano gli occhi ogni volta passando e anche Don Illuminato li abbassava. Pezzo di ipocrita. Ridevano un tanto, fiorenti, le mirabili forme della dea decapitata, emersa dal tempo remoto, nata da uno scalpello greco, da un artefice ignaro che la sua opera dovesse tanto sopravvivere e parlare a profana gente un linguaggio diabolico, ornamento di un vestibolo tra cassoni di lauri e di palme. Finita la messa, gli uomini della compagnia di guardia fecero ala sull'attenti al passaggio del principe che si recava al museo. Così erano chiamate le sale a pian terreno dell'altro lato del vestibolo, nelle quali, tra alte piante da serra, erano raccolti gli oggetti antichi di inestimabile valore. Statue, sarcofaghi, vasi, iscrizioni, scavati a Colimbetra e che Don Ippolito aveva illustrati molti anni addietro nelle sue memorie da Cragas, insieme col prezioso medagliere esposto su, nel salone della villa. Nel museo, Don Ippolito soleva passare tutta la mattina, intento allo studio appassionato e non mai interrotto delle antichità agragantine. Attendeva ora a tracciare in una nuova opera la topografia storica dell'antichissima città col sussidio delle lunghe, minuziose investigazioni sui luoghi, giacché la sua Colimbetra si estendeva appunto dove era prima il cuore della greca Acragante. Un gravissimo problema travagliava da parecchi mesi Don Ippolito circa alla destinazione di questa acropoli. «Disturbo?» domandò inchinandosi sulla soglia in quella seconda sala Don Illuminato la Gaipa, che già si era spogliato degli arredi sacri e aveva fatto la solita colazione di cioccolato e biscottini. Era un prete di mezza età, tondo di corpo, dal volto bruciato dal sole, nel quale gli occhi cilestri, troppo chiari, pareva vaneggiassero smarriti. Buon uomo, in fondo, pacifico e non curante. Lì, in presenza del principe, che ogni domenica lo tratteneva a colazione, si dava per fargli piacere arie di rigida e battagliera intransigenza, di cui rideva poi discorrendo filosoficamente con la sua vecchia e fedele Fifa. L'asina mansueta che lo condusse al cancello presso il camposanto di Bonamorone. Pochi ettari di terra che, se sapevano il rapido passar della vita, pure sotto questo o quel re, gli producevano ogni anno quel tanto che modestamente gli bisognava. «Domenica oggi non si lavora!» soggiunse, levando le mani e sorridendo. «Non è lavoro il mio, propriamente!» gli disse con un sobrio gesto garbato don Impolito. «Già, ozia, secondo Cicerone!» si corresse don Lagaipa. «Ha ragione. Venivo per dirle che ieri mattina, prima che mi recasse al mio gambicello, Monsignore mi fece l'onore di incaricarmi di una basciata per Vostra Eccellenza.» «Monsignor Mondoro?» «Già. Mi disse di avvertire Vostra Eccellenza che oggi, nel pomeriggio, con l'aiuto del Dio, verrà qua per parlare, suppongo, delle prossime elezioni.» E sospirò intrecciando le dita e scotendo le mani così giunte. «Pare che il diavolaccio maledetto si senta prudere la corna. Guerra e tempesta. Ho sentito che sono arrivate da Palermo, per richiamo, dicono, del canonico Agro, due certe gallinelle d'acqua, già, due famosi galoppini al comando dell'alta mafia e della famigerata banda massonica. Un tal Cavalier Mattina e un tal Veronica.» «L'Agro», disse cupo don Ippolito Laurentano, che s'era impuntato a quel nome, senza più badare al resto. «Dunque l'Agro vuole proprio scendere in piazza senza alcun ritegno, senza alcun riguardo, nemmeno per l'abito che indossa.» Tornò a sospirare don Lagaipa. «Superiore mio, superiore, ma io dico ciò che si dice. Relata, refero. Non manda giù, dicono, che non l'abbiano fatto vescovo al posto del nostro eccellentissimo Monsignor Mondoro. Crede di salvare le apparenze con la scusa dell'antica amicizia che lo lega alla Ureti. Ecco.» «Bella amicizia da gloriarsene», brontolò il Laurentano, «per un sacerdote.» «Ma l'Agro...» osservò don Illuminato e non aggiunse altro. Chiuse gli occhi, tentennò il capo, emise un terzo sospiro. La faccenda si complica, si fa molto delicata.» «Per me?» saltò su a dire don Ippolito, e il lucido cranio gli si infiammò. «Delicata per me? Sappia, Monsignor Montoro, e già dovrebbe saperlo, io non riconosco e non ho mai riconosciuto per nipote cotesto Roberta Auriti Garibaldesco. Non lo conosco neppure in vista. Qua non è mai venuto. E io, del resto, gli avrei fatto oltrepassare la soglia del mio cancello. Per ordine del suo governo, non invitato dalla cittadinanza, viene qui con la folle speranza di prendere posto di Giacinto Fasello. Bene, avrà ciò che si merita. Senza alcuna considerazione per la mia sciagurata parentela involontaria, si lotti e si venga. Bisogna vincere, mio caro don Illuminato. Io, guardi, in questo momento ho contro me un esercito di eruditi tedeschi, di topografi, di storici antichi e nuovi di ogni nazione. La tradizione popolare, eppure non mi do per vinto. Il campo di battaglia per me è qua, vi aspetto.» Egli mostrò il libro, picchiando con le nocche delle dita sulla pagina, e soggiunse: «Lo traduca lei! Lo traduca lei questo dal greco!» Il povero don Illuminato Lagaipa restò quasi basito. Credeva di non meritarsi un simile trattamento. Don Ippolito sorrise, poi, introducendo il braccio sotto il braccio di lui, e soggiunse: «Venga con me. Le spiegherò in due parole di che si tratta.» Oltre il bosco, sul lungo ciglione, sorgevano i famosi tempii superstiti, che parevano collocati apposta a distanza per accrescere la meravigliosa vista della villa principesca. Oltre il ciglione, il pianoro, ove stette splendida e potente l'antica città, strapiombava aspro e roccioso a precipizio sul piano della Cragas. tranquillo piano luminoso che spaziava fino a terminare laggiù laggiù, nel mare. «Non posso soffrire questi teutoni», disse il principe, rientrando con Don Illuminato la gaipa nel museo. «Questi teutoni che, non potendo più con le armi, invadono coi libri e vengono a dire spropositi in casa nostra, dove già tanti se ne fanno e se ne dicono». Si intese in quel punto il rotolio di una vettura per la strada incassata dietro la villa e Don Ippolito contrasse le ciglia. Entrò poco dopo, turbato e smarrito nella sorpresa, Liborio, il cameriere. «Perdoni, eccellenza», balbettò. «È arrivata da Girgenda la signora». «Che signora?» domandò il principe. «Sua sorella, donna Caterina». Don Ippolito restò dapprima come stordito da un improvviso colpo alla testa. Arricciò il naso e impallidì. Poi, di un subito, il sangue gli balzò al capo. Chiuse gli occhi, impallidì di nuovo, aggrottò le ciglia, serrò la pugna e, col cuore che gli martellava in petto, domandò: «Qua? Dov'è?» «Su, eccellenza, nel salone», rispose Liborio, e poco dopo, vedendo che il principe restava perplesso, chiese: «Oh, ho fatto male!» Don Ippolito si voltò a guardarlo per un pezzo, come se non avesse inteso, e poi disse: «No!» e si mosse, senza neppur volgere uno sguardo alla gaipa. Con l'animo in tumulto, cercò di fissare un pensiero che gli spiegasse il perché di quella visita straordinaria, non volendo, non sapendo ammettere quel che gli era in prima balenato. Che la sorella, cioè, colei che in tante sciagure aveva sempre rifiutato con ostinata fierezza, anzi, con disprezzo, ogni soccorso, venisse ora a intercedere per il figlio Roberto. «Ma che altro potete fare?» Salì la scala. Era tanto oppresso d'angoscia e in preda a un'agitazione così soffocante che dovette fermarsi per un momento davanti alla soglia. Entrare? Presentarsi a lei in quello stato? No, doveva prima ricomporsi e in punta di piedi si diresse alla camera da letto. Qua, istintivamente, s'appressò allo scrigno dove erano conservati un medaglioncino di lei in miniatura di quando ella era giovinetta di 16 anni e i due biglietti che gli aveva scritti senza intestazione e senza firma. Uno da Torino, dopo la morte violenta del padre, l'altro da Girgenti, al ritorno dell'esilio, dopo la morte del marito. Il primo, più ingiallito, diceva: «I beni confiscati a Gerlando Laurentano dal governo borbonico furono restituiti al figlio Ippolito da Carlo Filangieri di Satriano. Nulla dunque mi spetta dell'eredità paterna. La moglie e il figlio di Stefano Auriti non mangeranno il pane di un nemico della patria». L'altro, più laconico, diceva: «Grazie. Alla vedova, agli orfani, provvedono i parenti poveri di Stefano Auriti. Da te, nulla. Grazie». Scostò con la mano quei due biglietti e fissò gli occhi sul medaglioncino che egli aveva tolto dal salone della casa paterna dopo la fuga della sorella con Stefano Auriti. Da allora erano già 45 anni. Non l'aveva più riveduta. Ora, dopo tanto tempo, dopo tante vicende funeste, quella giovinetta bellissima che gli stava davanti, rosea, ampiamente scollata, nell'antica acconciatura, con quegli occhi ardenti e pensosi. Richiuse lo scrigno dopo aver gettato un altro sguardo sui due biglietti sprezzanti e, grave e accigliato, s'avviò al salone. Sollevata la tenda dell'uscio, intravide con gli occhi intorbidati dalla commozione la sorella, in piedi, alta, vestita di nero. Si fermò poco oltre la soglia, oppresso d'angoscioso stupore alla vista di quel volto disfatto, irriconoscibile. «Caterina!» mormorò, sostando, e le tese istintivamente le braccia, pur con l'impressione in contrasto che quella era ormai un'estranea, al tutto ignota. Ella non si mosse, rimase lì, in mezzo al salone, cerea, tra le fitte gramaglie, col volto contratto e gli occhi chiusi, altera, indurita nello spasimo di quell'attesa. Aspettò che egli le si accostasse e gli toccò appena la mano con la sua, gelida, guardandolo ora con quegli occhi stanchi, velati di cordoglio, quasi a metà nascosti dalle palpebre, uno più, l'altro meno. «Siedi», disse, con gli occhi bassi, quasi intimidito il fratello, indicando il divano e le poltrone nella parete a sinistra. Seduti, stettero un lungo pezzo entrambi senza poter parlare, in un silenzio che fremeva d'intensa e violenta commozione. Don Ippolito chiuse gli occhi. La sorella, dopo aver soffocato parecchie volte con sforzo un singhiozzo che le faceva impeto alla gola, disse alla fine con voce rauca: «Roberto è qui!» Don Ippolito si scosse, riaprì gli occhi e, senza volere, li volse in giro per la sala, come se, smarrito tra gli interni ricordi tumultuanti, avesse temuto un'imboscata. «Non qui!» riprese donna Caterina con un freddo, amaro, lievissimo sorriso. «Nel tuo dominio straniero, a Girgenti, da 2 giorni. Don Ippolito, aggrondato, chinò più volte la testa per significarle che sapeva. «So perché è venuto», aggiunse con voce cupa. Poi levò il capo e guardò la sorella con penosissimo sforzo. «E che potrei io? Nulla, oh, nulla!» s'affrettò a rispondergli donna Caterina. «Voglio che tu lo combatta con tutte le tue forze. Non ci mancherebbe altro che anche tu lo sostenessi e che egli andasse su anche coi vostri voti.» «Ma assai bene», si provò a dirle il fratello. «Sì, lo so, so», troncò recisamente con un gesto della mano donna Caterina. «Ma combatterlo, non col coltello alla mano, non andando a scavare le fosse come le iene, a scoperchiare certe tombe sacre da cui i morti potrebbero levarsi e farvi morire di paura.» «Piano, piano», disse don Ippolito tendendo le mani che adesso si fermavano, non tanto per protestare quanto per placare quell'ombra tragica della sorella così agitata. «Io non ti intendo. Mi brucia le mani», disse allora donna Caterina, gettando sul tavolinetto innanzi al divano una copia dell'Empedocle tutta spiegazzata. Don Ippolito prese quel foglio, lo spiegò e cominciò a leggerlo. «Con codeste sozze armi, contro un morto», mormorò donna Caterina, accompagnando la lettura del fratello. Ansava, seguendo quella lettura e osservando sul volto di lui l'impressione disgustosa che egli ne riceveva. «Roberto», riprese, «è andato alla redazione di codesto giornale. Gli si è fatto innanzi l'autore dell'articolo, che è figlio, e m'hanno detto, di un tuo schiavo qui, il Pregola. L'ha preso e scagliato contro una porta. Gliel'hanno strappato dalle mani. Ora costui, armato di coltello, e l'ha cavato fuori, minaccia d'uccidere. E questa mattina stessa è stato visto in agguato presso la mia casa. Ma io non temo di lui. Temo che Roberto si comprometta di nuovo e torni a insozzarsi le mani. Così volete combatterlo?» Don Ippolito, che seguitando a leggere aveva ascoltato con animo sospeso il racconto, a quest'ultima domanda si scosse, indignato, come se la sorella lo avesse percosso sul viso, accomunandolo con quell'abietto che aveva scritto l'articolo. Si levò in piedi alteramente, ma si frenò subito e andò a premere un campanello. A Liborio, che subito si presentò sulla soglia, «Il preola!» ordinò. E poco dopo il vecchio segretario entrò, curvo, ossequioso, anzi, strisciante, quasi cacciato lì dentro a frustate. Vestiva un'ampia e greve napoleona. Dal colletto basso, troppo largo, la grossa testa calva, inteschiata, sbarbata, gli usciva come quella di un vitello scorticato. «Eccellenza, eccellenza, manda subito a chiamare tuo figlio Girgendi», comandò il principe, «che venga subito qua. Devo parlargli». «Eccellenza, mi congeda», s'arrischiò a dire il preola storcendosi, con una mano sul petto, mentre la trama delle vene gli si gonfiava sul cranio paonazzo. «Mi congeda che all'eccellentissima sua signora sorella io umilmente basta, basta e basta», gridò seccamente il principe. «So io quello che devo fare a tuo figlio. Anzi, ascolta, mi fa troppo schifo e non voglio né vederlo né parlargli. Gli dirai tu che se si arrischia ancora a mostrare la sua laida grinda per le vie di Girgendi, tu sei messo alla strada. Ti caccio via su due piedi. Inteso?» Il preola cavò un fazzoletto dalla tasca posteriore della napoleona e approvò più volte, asciugandosi il cranio. Poi si portò il fazzoletto agli occhi e si scosse tutto per un impeto di singhiozzi. Pendaglio da forca, gemette. «Mi disonoro, eccellenza. Lo manderò via, a Tunisi. Ho già fatto le pratiche. Intanto lo faccio venire qua. Mi perdoni, mi combatisca, eccellenza». E uscì rintolando, ossequiando, col fazzoletto sulla bocca. Donna Caterina si alzò. «Con questo», le disse Don Ippolito, «non intendo affatto di derogare a me stesso alla lotta per i miei principi contro tuo figlio». Donna Caterina alzò gli occhi a un grande ritratto a olio di Francesco II, a un altro del re Bomba, che troneggiava nel magnifico salone da una parete. Chinò il capo e disse: «Va bene, non desidero altro». E si mosse per uscire. «Caterina!» chiamò Don Ippolito quando ella era già presso l'uscio. «Te ne vai così? Forse non ci rivedremo mai più. Tu sei venuta qua come dall'altro mondo», disse ella, crollando il capo. «E non t'avrei riconosciuta», soggiunse il fratello. «Perché non attendi un po' qua? Ti farò vedere come io ti ricordavo, Caterina». E corse a prendere dallo scrigno della camera da letto il medaglioncino in miniatura e glielo mostrò. «Guarda, ti ricordi?» Donna Caterina provò dapprima come un urto violento alla vista della sua immagine giovanile e ritrasse il capo. Poi prese dalle mani di lui il medaglioncino, si appressò al balcone e si mise a contemplarlo. Da un pezzo quegli occhi quasi spenti non avevano più lacrime e l'ebbero. Pianse silenziosamente anche lui e il fratello. «A voi?» le disse infine. Ella negò col capo, asciugandosi gli occhi col fazzoletto listato di nero, e gli porse in fretta il medaglioncino. «Morto!» disse. «Addio!» Don Ippolito l'accompagnò a piede della villa. L'aiutò a montare in vettura e le baciò lungamente la mano. Poi la seguì con gli occhi finché la vettura non svoltò dal breve viale a manca per uscire dal cancello. Don Ippolito guardò i tempi che si raccoglievano austeri e solenni nell'ombra e sentì una pena indefinita per quei superstiti di un altro mondo e di un'altra vita. Tra tanti insigni monumenti della città scomparsa, solo ad essi era toccato in sorte di veder quegli anni lontani, vivi essi soli, tra la rovina spaventevole della città, morti ora essi soli, in mezzo a tanta vita d'alberi palpitanti. nel silenzio di foglie e di alberi.